Eccoci qua, questa è Corrente Alternata come ogni mercoledì sui 101.9, modulazione frequenza Radio Alma, DJ Lando in voce e regia, non troppa voce, abbassiamo un po' il microfono. Allora, Corrente Alternata alle 20 alle 21, cominciamo dopo la nostra sigla Banda Bassotti Avanzo dei Cantieri, che ci accompagna ormai da sempre, da tantissimo tempo, da un decennio, di più di un decennio sicuramente. Il primo pezzo di un terzetto così che mandiamo questa sera per iniziare. Innanzitutto diciamo che questa sera tutti piccoli CD, piccolini, piccoli, poco spazio, qua meno spazio, ma la musica è bella. Hum si chiama questo gruppo, un progetto, lui è un singolo, Dalla Russia con Amore, uno dei suoi primi lavori, Sleepland Emission, un pezzo lungo quanto il mini CD, una ventina di minuti, ne ascoltiamo solamente un frammentino. Cominciamo con Hum. Sì, questo era il pezzo che ci ha proposto che sta continuando a scorrere in silenzio in sottofondo, era tratto da Sleepland Emission, il secondo.